Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, avremo un lungo approfondimento sull'appuntamento più importante per quello che riguarda il mondo dell'industria a livello annuale, ossia l'assemblea di Confindustria. Oggi l'intervento, la relazione come sempre del presidente, della presidente Emma Marcegaglia, l'intervento a seguire del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, presente in sala più di metà del governo, assente per impegni il ministro Tremonti, ma soprattutto presente anche quello che in gergo si chiama il gota dell'economia e della finanza, a partire dal governatore della Banca d'Italia Mario Draghi, ma non solo, tutti i banchieri italiani e chiaramente tutti gli imprenditori italiani, oltre 3.000 persone in sala. Numerosi temi toccati, già ve ne hanno parlato i nostri GR in estrema sintesi. Beh, in sostanza la manovra è stata giudicata nella giusta direzione, ma priva o con poche misure strutturali, e poi una dura critica di Emma Marcegaglia ai costi della politica, all'industria della politica, l'unica industria che non conosce crisi in questo paese, ai sacrifici necessari, e l'appello rivolto anche ai sindacati a trovare un'assise per lo sviluppo, per la crescita economica, definita la vera, o meglio l'assenza di una crescita economica, la vera emergenza nazionale. E poi l'intervento del presidente del Consiglio Berlusconi, molto breve, più breve delle attese. Non è entrato nei temi della manovra Silvio Berlusconi, che parlava soprattutto a livello istituzionale come ministro dello sviluppo economico, nel senso che il protocollo vuole che chiuda il ministro dello sviluppo economico l'assemblea di Confindustria, e Berlusconi, come sapete, ha preso con a sé, avvocato a sé, l'interim di quello che era il ministero guidato da Claudio Scajola. Poi sentiremo anche le varie reazioni delle parti sociali, ma anche di alcuni esponenti dell'economia e della finanza al termine dell'assemblea di Confindustria. Dicevo, non è entrato il Presidente del Consiglio negli elementi della manovra, devo dire già illustrata ampiamente ieri. Molto fredda la sala, questo è il commento che alcuni hanno voluto vedere, pochi gli applausi e soprattutto nessuna risposta quando il Presidente del Consiglio ha chiesto agli imprenditori di alzare la mano per dire se fossero favorevoli all'ingresso di Emma Marcegaglia come Ministro dello Sviluppo Economico. Non si è alzata nessuna mano. Ma al di là di questo, le difficoltà restano. La buona notizia di oggi si chiama invece borsa. Ora, fermo restando che più che una borsa è una, diciamo, un mercato schizofrenico quello a cui assistiamo in queste settimane, oggi Milano recupera tanto, il 4,1%, molto bene anche Parigi, più 3,2%, Francoforte più 3%, Londra più 3%, l'America più 2%, e tra i titoli guadagnano. Oggi devo dire non ci sono dei rialzi, per carità sono molto forti, ma non ci sono dei titoli che staccano, per usare un linguaggio ciclistico, rispetto ad altri, perché Azimut guadagna il 7%, Intesa il 6,60%, Unicredit il 6%, Impregilo il 5,5%, Generali 5% come Geox e Fiat, il Monte dei Paschi 4,60%, ma sono tantissimi i titoli che guadagnano tra il 2 e il 4%. Diciamo che sopra il 4 c'è anche Monte dei Paschi più 4,70, Mediaset più 4,60, Saipem più 4,5, Pirelli più 4,1, Mediobanca più 4 e Buzzi Unicem più 4%. Tutto il resto guadagna tra il 2 e il 4%, tranne Italcementi più 1,80, Autogrill più 1,60, Lottomatica più 1,30 e ancora Prismian più 1,30, Terna più 0,6. Tutti positivi quindi i titoli, in assoluto i migliori e i peggiori del listino si chiamano Agegas più 12, Ross più 19, Montefibre più 9,70 e Cell Therapeutics più 7,90. I peggiori GDF Suez meno 4,40, Vivendi meno 4,3, P-Quadro meno 3,12 e Reply meno 3,15%. Ancora sui mercati l'euro rimane debole ma fermo a quota 1,22, ripeto, una debolezza del tutto relativa. L'euro nei confronti del franco svizzero è 1,42,3, nei confronti dello yen è a 100 11. Parleremo quindi ampiamente dei temi di politica e politica economica e poi anche di quelle che sono state le reazioni degli altri soggetti. Mi riferisco in questo caso soprattutto agli enti locali, regioni, province, comuni, molto critici tutti e tre nei confronti della manovra. Addirittura chi rappresenta le province italiane ha negato che vi sarà alcuna soppressione di alcuna provincia e già i distinguo iniziano a fioccare. E di questo parleremo nella seconda ora del programma, tenendo assieme le richieste che arrivano dal mondo delle imprese con la manovra del governo. 349-238-6666 per i vostri sms. Le altre notizie in breve. Il petrolio è a $73,2 al barile. Per quello che riguarda l'economia americana, la crescita americana nel primo trimestre dell'anno è stata corretta leggermente al ribasso, più 3% contro una prima lettura, un più 3,4%. Sono calati i sussidi di disoccupazione, ma non come da attesa, sono rimasti un po' più alti delle attese, 14.000 in meno a 460.000, il dato settimanale. Il Tesoro italiano oggi ha collocato attraverso un'asta di BTP a 10 anni per un totale di 1 miliardo di euro a fronte di un importo richiesto di 1 miliardo e 700 milioni. Praticamente il rendimento annuo si è attestato al 2,59%. Il collocamento dei titoli a 30 anni valeva 460 milioni, di richieste sono state quasi doppie, 987 milioni. Sì, vedo già dei messaggi sull'abolizione delle province, non si capisce, ne parliamo nella seconda ora. Intanto erano solo una decina quelle previste, ma adesso tutti, sì, Bergamo, abbiamo visto che la dichiarazione di Umberto Bossi è: se si tocca Bergamo scoppia la rivoluzione. Ci si chiede perché Monza e Lodi non dovrebbero valere come Bergamo, ma anche le province del sud. Insomma, c'è un po' di caos sull'abolizione delle province. Comunque, le novità in manovra rispetto a quanto già noto. Allora, arriva il contratto alla tedesca per i lavoratori italiani. Praticamente il fisco e la previdenza faranno lo sconto ai premi dati ai dipendenti che hanno contribuito a far guadagnare la propria impresa, cioè i dipendenti più produttivi. La novità scatterà dal 2011 e si applicherà su importi fino a 6.000 euro per redditi non superiori ai 40.000 euro. Risconto sui bonus produttività per i dipendenti. Allora, sulle province, bisognerà attendere 4 mesi per la completa soppressione delle mini province con meno di 220.000 abitanti, perché le norme danno facoltà ai comuni entro 60 giorni di scegliere la nuova provincia tra quelle non soppresse, e prevede 120 giorni prima che un decreto del Presidente del Consiglio arrivi a determinare le nuove circoscrizioni provinciali, poi altri 2 mesi per trasferire i beni e le risorse delle province soppresse. Confermato invece che i salari del pubblico impiego saranno congelati al 2010, quindi a salario 2010 fino al 2013. E, tra l'altro, la scure invece sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici non consentirà ai rinnovi contrattuali stabiliti nel 2008-2009 di superare la soglia del 3,2%. I pedaggi non solo sulle autostrade ANAS, non solo sulle autostrade normali, ma anche sulle autostrade ANAS come la Salerno-Reggio Calabria, per esempio appunto raccordi autostradali, ma anche le autostrade in gestione diretta dall'ANAS, saranno sottoposti all'applicazione del pedaggio 1/2 euro di rincari sulle autostrade, ma solo per quelle collegate con raccordi autostradali gestiti dall'ANAS. Beh, Vasco Errani, il presidente delle regioni, della conferenza delle regioni, ha detto: in questo modo, con i tagli, noi confermiamo un giudizio negativo, il federalismo fiscale è a rischio. L'Unione delle Province Italiane, per voce del suo presidente Giuseppe Castiglione, ha detto non c'è alcuna norma prevista nella manovra che riguardi l'abolizione delle province. Qui nasce un classico giallo all'italiana: c'è o non c'è? Le eliminano o non le eliminano? Vabbè, poi il presidente dell'Associazione dei Comuni Italiani, Sergio Chiamparino, ha detto così com'è la manovra per i comuni è letteralmente insostenibile. Di questo parleremo nella seconda ora del programma. Adesso concentriamoci sull'appuntamento economico più importante della giornata, devo dire anche di questi ultimi mesi: l'assemblea con oltre 3.000 industriali, le richieste che arrivano al mondo dell'industria. In chiaroscuro il giudizio di Anna Marcegaglia sulla manovra. Buona il sentiero intrapreso. La Marcegaglia ha confermato il sostegno di Confindustria alla manovra, anche se ha detto che non è strutturale. Andiamo con ordine, però il primo passaggio, abbiamo estrapolato chiaramente in una relazione durata oltre un'ora alcuni passaggi principali. Il primo accenno è stato ai danni che ha creato una crisi che si è generata, poi ascolteremo anche il passaggio sull'agenzia di rating, dal mondo finanziario e i danni creati all'occupazione in Italia. Per l'Italia il bilancio della crisi è stato pesantissimo e noi lo sappiamo. Rispetto ai picchi del primo trimestre 2008 abbiamo perso quasi 7 punti di PIL e oltre 700.000 posti di lavoro. Il ricorso alla cassa integrazione guadagni è aumentata di 6 volte. La produzione industriale è crollata del 25%, tornando ai livelli di fine 1985, 100 trimestri bruciati. E in alcuni settori l'attività produttiva si è dimezzata, tanti nostri settori fondamentali hanno vissuto un dimezzamento dei fatturati. Va detto che fortunatamente è in corso un rimbalzo che potrebbe anche risultare superiore alle attese. La produzione industriale sta aumentando del 7% e potrebbe anche velocizzare questa cosa, potrebbe accelerare. Ma su questo recupero gravano le incognite della crisi europea di cui abbiamo parlato. E comunque non si tratterà di un duraturo innalzamento del nostro ritmo di sviluppo. Questo per quello che riguarda la fotografia dello stato dell'arte di questa crisi. Il passaggio forse più atteso era quello che riguardava il giudizio di Confindustria sulla manovra. Già erano arrivati dei giudizi, però insomma si attendeva l'assemblea di oggi. E allora ha detto Anna Marcegaglia: sosterremo la manovra, attenzione però, non è strutturale, cioè non interviene a livello strutturale sulle voci di spesa, occorrerà rafforzarla in Parlamento. La manovra varata dal governo 2 giorni fa contiene misure che Confindustria chiede da tempo. Perciò noi diamo sostegno alla linea di rigore del presidente Berlusconi e del ministro dell'Economia approvata martedì in esecutivo. Sono misure giuste che vanno rafforzate in Parlamento, non vanno indebolite in Parlamento, vanno rafforzate. Devono però ora essere varati interventi strutturali per incidere sui meccanismi di formazione della spesa pubblica. Servono inoltre riforme per rilanciare lo sviluppo. E poi l'attacco alla politica, quello che le agenzie e i titoli dei siti hanno ripreso forse con maggior forza, perché dopo aver ricordato che in un momento di crisi tutti devono tirare la cinghia a partire dalla classe politica che deve dare l'esempio. E voglio dire, poi sentiremo anche un passaggio sui costi della politica, ma insomma c'è stato questo richiamo all'industria che viene creata dalla politica, dalle lobby politiche, con una definizione molto forte: l'unica industria del paese che non conosce né crisi né cassa integrazione. Grazie anche al nostro lavoro e alla disponibilità dei ministri competenti, finalmente si è definito un provvedimento che impedisce un comportamento incivile, quello di amministrazioni pubbliche che non partecipano alle conferenze dei servizi, che non guardano neppure le carte, che non si presentano e bloccano così anche per anni gli iter autorizzativi. Finalmente questa cosa è stata terminata. È importante che questo provvedimento che ha inserito nella manovra diventi legge prima possibile. Ma l'inefficienza pubblica, dobbiamo dirlo, non è figlia solo di logiche lontane dalla produttività. Nasce da troppi interessi partitici, troppe rendite da salvaguardare. Diciamolo chiaro, la politica dà occupazione a troppa gente in Italia ed è l'unico settore che non conosce né crisi né cassa integrazione. E poi i costi della politica, poi arriveremo anche ai costi della pubblica amministrazione e a qualche critica che è arrivata all'attività del governo, a cui ha anche risposto il Presidente del Consiglio. I costi della politica, tutti devono fare la loro parte. La sforbiciata data con la finanziaria agli enti, ai costi della politica, è sacrosanta, ma è solo un buon inizio, va continuata. Perché, vedete, questo noi lo sappiamo bene, quando il Paese deve fare dei sacrifici, e qui è chiaro che il Paese deve fare dei sacrifici, è del tutto impensabile che non sia la politica per prima a ridurre energicamente i suoi privilegi. Se non si fa questo non è accettabile. È arrivato il momento nel quale i politici italiani, dal Parlamento giù fino all'ultima comunità montana, taglino i propri stipendi, taglino le dotazioni per le loro segreterie e collaboratori, taglino agevolazioni e esenzioni. La diminuzione del 10% delle indennità dei membri del governo, guardata da un'ottica internazionale, è un timido esordio. Bisogna continuare. È assolutamente opportuno che vi si adeguino anche gli altri organi costituzionali. Le rinunce devono essere fatte da tutti. Razionalizziamo le province, questo è un ritornello, il cui numero, secondo gli annunci del governo, doveva diminuire. Ora sentiamo dire che in questa manovra ne verrebbero eliminate 10, che sono pochissime, noi ne vorremmo eliminate molte di più, ma addirittura che c'è l'idea che nemmeno queste 10 vengono eliminate. Noi chiediamo invece che anche qui ci sia un passo avanti preciso e serio. Allora, i costi delle province, l'eliminazione delle province, e questo ha ottenuto anche molti applausi, ma arriveremo a questo giallo. Restano tutte le province, non restano le province, chi lo sa? Alcuni sms che stanno arrivando al 349-238-6666 dicono, ma insomma, fate notare anche che molte aziende vivono grazie ai soldi pubblici. Ora, io non so quali aziende, ci sono sicuramente molte aziende che hanno rapporti con la pubblica amministrazione. Faccio però notare che quello che è certo è che la pubblica amministrazione deve qualcosa come tra i 60 e i 70 miliardi di euro di debiti alle imprese. Sono soprattutto le pubbliche amministrazioni che hanno a che fare con la sanità, e che in questo momento non c'è molta speranza di rivedere con questi conti pubblici, con questi chiari di luna. Quindi insomma, sicuramente c'è un rapporto, e ci mancherebbe, tra industria privata e pubblica amministrazione. Ci sono dei soldi che la pubblica amministrazione deve, tra i 60 e i 70 miliardi, cioè tipo 4 manovre finanziarie, ancora all'industria. E poi un dato sulla spesa pubblica che è scappata di mano e che chiama in correità tutti i governi dal 2000 in poi, quindi secondo governo Berlusconi, secondo governo Prodi e terzo governo Berlusconi, più 16% di stipendi pubblici dal 2000 contro un più 4% di aumento degli stipendi privati. La verità è che la presenza dello Stato in Italia è continuata a crescere e continua a crescere. Dall'ingresso nell'euro all'anno prima della crisi, la spesa pubblica corrente al netto degli interessi è cresciuta di quasi 2 punti di PIL. Tra il 2003 e il 2007 la Germania, che deve essere il nostro benchmarking, l'ha abbassata di 4 punti. Tra il 2000 e il 2008 le retribuzioni nel pubblico impiego sono aumentate del 16,1% in più dell'inflazione contro il 3,9% di quelle private. Qua sta il problema. E gli incrementi maggiori si sono avuti negli enti locali. Insomma, qua ce lo dobbiamo dire con chiarezza, la spesa pubblica è scappata di mano in questi anni. Dal 97 al 2008 l'attenzione si è concentrata sul contenimento della spesa corrente primaria centrale, quello dello Stato, che è dunque salita solo, si fa per dire, del 38%. Nel frattempo quella delle regioni e delle autonomie locali aumentava dell'80%. Questi sono dati veri, chiari. È chiaro che si tratta di dinamiche esplosive che soffocano l'economia e la società e che impediscono di ridurre le imposte. Questi alcuni dei passaggi principali. Io vorrei farne ascoltare ancora un paio che non riguardano però necessariamente la manovra, i costi della pubblica amministrazione, ma altri elementi che comunque vanno a limitare la capacità di ripresa e di competere nel nostro paese. Le liberalizzazioni, di cui obiettivamente si è perso traccia, ne ha parlato anche Oscar Giannino alcune settimane fa da questi microfoni. ci si attendeva che da un governo centrodestra arrivasse una spinta ulteriore verso le liberalizzazioni, che vuol dire mettere in concorrenza vera i vari settori e vinca il migliore, possibilmente con un abbassamento dei costi per noi, per l'utente finale. Ed è stata forse la critica, al di là delle votazioni sulla manovra, più forte che è arrivata dal presidente Confindustria all'operato del governo. Lo abbiamo detto a Parma, lo ripetiamo: se il governo e la maggioranza persistono in questa marcia indietro a tutto spiano sulle liberalizzazioni nel commercio e nelle professioni, noi ci metteremo di traverso e sarà opposizione dura, perché nessuno di noi si è mai sognato di chiedere tariffe minime per gli elettrodomestici, per le macchine e utensili, per gli abiti. Allora, se è questo che ci volete, ci mettiamo in fila anche noi, chiediamo tutte tariffe minime, il paese va allo sfascio, ma questo non è certo quello che vogliamo. E così sulle liberalizzazioni, poi sentiremo anche la replica del Presidente del Consiglio Berlusconi. Altri due elementi: ai sindacati l'invito, a chi ci vuole stare, CISL-UIL, ma non solo, anche la CGIL, è arrivato un invito subito, un'assise, ossia un tavolo di lavoro per arrivare a un patto per la crescita. Vogliamo noi per primi dare l'esempio di quel grande sforzo di responsabilità nazionale che noi chiediamo alla politica, non da soli. Allora io mi rivolgo a tutte le altre associazioni di impresa e a tutte le confederazioni sindacali. Molto dipende da noi. Una maggiore produttività unita a più salario, a occupazione aggiuntiva, a nuovi ammortizzatori sociali che diano più flessibilità all'impresa e tutelino il lavoratore. Tutto ciò che è fondamentale può nascere prima e meglio se imprese e sindacati definiscono obiettivi e strumenti condivisi. La produttività dipende dal capitale umano, dall'innovazione, dalla logistica, dai servizi, dall'utilizzo degli impianti, dagli orari, dai turni. La formazione va alternata al lavoro. La flessibilità ha consentito tra il 97 e il 2007 di accrescere di oltre 5 punti il tasso di occupazione, dal 52 al 58%. Certo, restiamo ancora 8 punti e mezzo sotto la media dei paesi OCSE, 11 e mezzo sotto la Germania. Gli sforzi maggiori, lo sappiamo bene, vanno rivolti ai giovani e alle donne, specie al Sud. È questa l'agenda sulla quale un serio confronto bilaterale, nella piena autonomia delle parti sociali, può in poco tempo far compiere un grande passo avanti al sistema produttivo italiano. E i negoziati in corso tra la Fiat e i sindacati per la valorizzazione dello stabilimento di Pomigliano vanno nella giusta direzione, sono il sentiero da percorrere. Quello che io sto proponendo e che noi proponiamo è quello di fare una grande assise dell'Italia, delle imprese e del lavoro. È a questa proposta che noi la rivolgiamo a tutte le organizzazioni sindacali e alle associazioni datoriali. Incontriamoci subito, diamoci l'obiettivo di una grande intesa per la crescita. Entro l'estate, diamo a noi per primi l'esempio. Allora, questi punti salienti, principali dell'intervento di Emma Marcegaglia. Vedo che molti scrivono sulle province, attenzione, ci sono circa 250.000 dipendenti, io leggo la cifra, adesso non ce l'ho sotto mano, quindi la prendo col beneficio del dubbio. Che fine facciamo fare a questi? Certo che il tema c'è, però insomma, anche continuare ad avere degli enti locali non esattamente produttivi non è una gran scelta. Bisogna trovare un modo per, a mio avviso, eliminarle, più volte ne abbiamo parlato, o comunque trasformarle in qualcos'altro. Detto questo, ascolteremo anche le altre reazioni per quello che riguarda l'intervento di Emma Marcegaglia. Ancora vedo molti messaggi che chiedono addirittura di eliminare i municipi. Obiettivamente non capisco perché mi sembra che i comuni abbiano dato obiettivamente manifestazione di un certo rapporto tra cittadino e spesa pubblica. Insomma, i sindaci vengono eletti o non eletti anche in base a come amministrano, cosa un po' diversa quella delle province. Vorrei chiudere questa parte però con un giudizio che era arrivato all'inizio della relazione della Presidente Confindustria sulle agenzie di rating, perché anche qui, diciamo, l'elemento critico non è mancato. Le agenzie di rating hanno perso qualsiasi credibilità. Ancora una volta si stanno rivelando specialiste in autopsie. hanno svolto un ruolo determinante nel favorire il collocamento di carta tossica alla quale attribuivano il massimo giudizio per guadagnare grasse commissioni dagli emittenti. Vi sono stati clamorosi errori nella valutazione del debito privato, che hanno chiaramente suscitato molti sospetti di conflitto di interesse. Pensiamo ai casi Enron e Lehman o da noi Cirio e Parmalat. A questi si sommano oggi intempestive e devastanti valutazioni sui debiti pubblici che hanno accentuato gli attacchi dei mercati. Così viene dissipata la fiducia faticosamente ristabilita e messa a rischio la ripresa. Dobbiamo ripensare il funzionamento delle agenzie di rating, ma non ci sembra una buona idea un'agenzia europea istituita presso un'autorità regolamentare. Questo è l'ultimo passaggio dell'intervento di Emma Marcegaglia che vi facciamo sentire. Vedo un flash di agenzia. Il Presidente del Consiglio Berlusconi ha appena dichiarato che in Italia il 22% dell'economia è in nero. Devo dire che sono i dati che risultano anche a noi, di cui abbiamo ampiamente parlato nelle scorse puntate. Ci batte solo la Grecia quanto a economia in nero e quindi evasione fiscale, distribuita in maniera molto diversa da regione a regione. Abbiamo fatto un'intera puntata su questo, però adesso le informazioni meteo, la pubblicità e poi le risposte alla relazione di Marcegaglia a partire dall'intervento di Silvio Berlusconi. 349-238-6666 per i vostri sms. ...17:41 di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Adesso sentiamo alcune delle reazioni di chi era presente all'Assemblea di Confindustria oggi, ma a partire soprattutto dall'intervento del Presidente del Consiglio. Dunque, vedo molti messaggi che dicono, ma insomma il pubblico è importante. No, attenzione, vediamo di capirci. In questo programma non solo abbiamo sempre detto che il settore pubblico è importante, ma abbiamo difeso a spada tratto, meglio criticato in maniera, l'hanno fatto i nostri ospiti, i tagli alla pubblica istruzione, perché un conto è migliorare l'efficienza della spesa, un conto è elevare i soldi to cure, 8 miliardi in meno in 3 anni e poi le carte igieniche portate nelle scuole. Altra cosa è dire che si devono premiare i meritevoli, si devono spendere più soldi per le strutture, per gli edifici e meno per gli stipendi, ma levare i soldi al pubblico rischia di essere anche da un punto di vista economico un elemento recessivo. Altra cosa però è dire che bisogna mettere sotto freno questa spesa della pubblica amministrazione. Negli ultimi 2 anni è cresciuta del 3,5% nel 2008 e del 4,6% nel 2009. La spesa corrente, cioè non quella per investimenti, quella per stipendi. È vero che c'è stata anche la cassa integrazione che è intervenuta, ma insomma, altro che riduzione della spesa. Qui la spesa continua a correre. Detto ciò, sentiamo l'intervento del Presidente del Consiglio Berlusconi che ha inizialmente elogiato l'intervento di Emma Marcegaglia dicendo che la direzione di Confindustria è quella del governo, ha garantito il massimo impegno del governo nel continuare su questa strada, ha chiesto agli imprenditori di dare una mano e via così. Però c'è stato un passaggio che ha un po' gelato la sala, cioè a un certo momento il Presidente del Consiglio ha detto: ma io adesso vi chiedo, volete che Emma Marcegaglia sia il prossimo ministro allo sviluppo economico, quindi che lavori con il Presidente del Consiglio, alzate la mano. Come vedreste la nostra Presidente di Confindustria di fianco al Presidente del Consiglio per dargli una mano come ministro dell'industria e dello sviluppo? Chi dice di sì alzi la mano. Nessuno alza la mano? Volete che rimanga in conflitto? E allora non ve la dovete più prendere col governo. Non ve la potete più prendere con quei poveracci che stanno al governo di questo paese, la cui situazione è stata ereditata da tutti coloro che hanno governato nei decenni precedenti, da qualcuno anche che dal 1980 al 1990 e 92 è riuscito a moltiplicare per 8 il debito pubblico. Così, nessuna mano si è alzata in sala. E, per quello che riguarda i commenti, ripeto, qua non parliamo di politica, ci sono altri programmi che lo fanno, quindi chi scrive, ma insomma anche il centrodestra governato negli ultimi 15 anni non è questo il tema. Sicuramente la spesa della pubblica amministrazione ha continuato a crescere negli ultimi anni, tranne un paio di eccezioni, anche nei governi di centrodestra. Va bene, l'altro passaggio dell'intervento del Presidente del Consiglio è quello in cui Berlusconi ha detto non sono d'accordo con Emma Marcegaglia per quello che riguarda le liberalizzazioni, non abbiamo fatto alcuna marcia indietro, la manovra imposta dall'Unione Europea, e comunque appunto noi andiamo nella stessa direzione della Confindustria e in questi 3 anni cercheremo di fare di più. Da parte del mio governo garantisco ad Emma, alla Giunta di Confindustria e a tutti voi il massimo dell'impegno e garantisco che le direzioni che qui Emma ha indicato sono nella loro totalità condivise dal nostro governo che opererà di conseguenza. Io vi garantisco che in questi 3 anni noi cercheremo di fare di più. Mi piacerebbe che anche voi ci deste una mano, magari anche con interventi personali. Conoscete l'indirizzo di Palazzo Chigi? Gli imprenditori che volessero rendersi disponibili a dare una mano con se stessi, con la propria esperienza, con la propria intelligenza, con la propria idealità, con la propria passione all'operato del governo, ci mandino la loro disponibilità, e il governo ha tante di quelle idee sul come utilizzare le capacità di un imprenditore che nessuno resterà deluso. Ancora altre reazioni sugli interventi strutturali, cioè sull'assenza che di interventi strutturali in questa manovra. Si è d'accordo su questo giudizio appunto espresso da Marcegaglia il ministro al welfare Sacconi, il quale però sull'invito di Marcegaglia a creare con i sindacati una assise, un tavolo per il rilancio e per la crescita del paese, ha detto ma insomma non mi sembra il momento dei convegni. Sentiamo il ministro Sacconi al microfono del nostro Vincenzo Miglietta. Tra tante parole, quelle che contano sono quelle che valgono subito, cioè c'è la condivisione della manovra di governo, e per il governo e per il paese credo questo sia il fatto che conta. E mi sembra che la relazione dica che questa manovra contiene riforme, provvedimenti che devono diventare strutturali, ed è la nostra esatta intenzione, non sono provvisori, sono permanenti. Ma è la vecchia idea di Montezemolo, degli stati generali dell'economia. Francamente questo è il tempo più dei fatti che dei convegni. Dopo il traffico sentiremo anche le parole del Presidente della Camera Gianfranco Fini, del leader dell'UDC Casini e poi anche di alcuni sindacati. 349-238-6666 per i vostri sms. Poi ampia pagina di borsa, più che buona, molto buona la chiusura oggi, più 4,5% a Milano, più 3,5% a Parigi, più 3% a Francoforte, più 3% a Londra, bene tutti i settori, nessuno praticamente escluso, molto bene le banche, Intesa San Paolo più 7, Unicredito più 6,70%, 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, le reazioni del mondo della politica, poi arriviamo alla borsa, all'intervento di Marcegaglia. Partiamo dal Presidente della Camera Gianfranco Fini, che ha elogiato soprattutto il passaggio di critica agli sprechi e costi della politica. Ho particolarmente apprezzato l'ultima parte quando fa appello alle parti sociali dicendo insieme dobbiamo dare l'esempio anche alle istituzioni, e l'ipotesi di accordo più produttività per le imprese, più salari per i lavoratori è certamente un obiettivo che deve essere tenuto ben presente da tutti. Comprensibili anche gli applausi scroscianti dell'Assemblea per le parole della Marcegaglia quando ha duramente stigmatizzato la politica sprecona, la politica che occupa posizioni che non le competono, la politica che non è capace di dare l'esempio. Comprensibili, per molti aspetti giustificabili. Quegli applausi mi hanno ricordato gli applausi che spesso salutavano le parole di chi come me diceva in altri momenti che non se ne poteva più per il malvezzo di finanziare con i soldi del contribuente alcune aziende private che non erano capaci di stare sul mercato. Ancora il leader dell'UDC Pier Ferdinando Casini, bene la Marcegaglia, occorre remare tutti insieme. Presidente di Confindustria ha parlato il linguaggio giusto, maggioranza, opposizione, parti sociali devono remare tutti nella stessa direzione perché il paese sta andando a fondo, per cui è inutile avere ottimismi di maniera che non servono, guardiamo in faccia la realtà e lavoriamo assieme tutti nella stessa direzione. E poi i sindacati, Guglielmo Epifani, leader della CGIL, ha commentato così l'invito che è arrivato a Marcegaglia da parte del Presidente del Consiglio a entrare nel governo Berlusconi. Insomma, un paese in cui un sindacalista fa il ministro del lavoro, industriale, il ministro dell'industria, cioè non mi piacciono governi corporativi, cioè. Ma credo che abbia fatto bene a continuare il suo lavoro in Confindustria. Dobbiamo marcare un'autonomia delle forze sociali, se no non c'è mai distinzione tra quello che fa il governo, quello che fa un sindacato, quello che fa un'associazione delle imprese. Anzi, io sono perché sia con grande chiarezza una divisione di funzioni e di responsabilità. E ultimo intervento che facciamo sentire è quello del segretario della CISL Raffaele Bonanni, che apre la proposta di una CISL che coinvolga tutte le parti sociali. Ma ho apprezzato moltissimo i vari passi della relazione, ma la cosa che mi piace di più è la proposta che io raccolgo con tutte le mie forze, quella di riunire tutte le forze sociali, tutti i sindacati, tutti gli imprenditori per costruire un programma per far uscire l'Italia dalla situazione in cui si trova, per raggiungere migliore produttività di sistema, per raggiungere migliore produttività della nostra realtà industriale. Credo che questa sia una proposta molto innovativa che la CIR raccoglie a piene mani. Bene, questo era l'ultimo intervento che vi facciamo ascoltare nei vari interventi che si sono succeduti a quello di Emma Marcegaglia. Ringrazio i colleghi Vincenzo Migliete e Alessandra Schepisi perché hanno raccolto la maggior parte degli a margine che avete ascoltato. E adesso passiamo alla borsa, giornata, ripeto, più che buona. Certo, gli indici rispetto all'inizio anno sono ancora sotto. Milano perde circa un 18% dall'inizio anno. Londra un meno 7, il Dow Jones un meno 4, però insomma oggi le borse hanno recuperato a Milano il 4,5% con moltissimi titoli che hanno guadagnato più del 4%, e allora le borse. Azimut più 7,42, Intesa più 7, Unicredit più 6,70, Impregilo più 6,20, Fiat più 5,90, Generali più 5,60, Mediaset più 5,1. Saipem più 5, Monte dei Paschi più 4,90, Geox più 4,80, Polare di Milano più 4,30, Pirelli più 4,2, Mediolanum più 4,1, Buzzi Unicem più 4%, come Tenaris e A2A. E il 3,90 lo guadagnano sia Enel che Mediobanca, il 3,60 sia Telecom Italia che Eni, il 3,5 sia CIR che Exor, il 3,30 sia ST Microelectronics, che UbiBanca, il 3% Fondiaria e Atlantia. E qui mi fermo, il titolo che ha guadagnato di meno è Terna, più 0,70, assieme all'automatica, più 1,5%, mentre l'euro ha recuperato quota 1,23, 1,23,6 in questo momento. E come sempre diamo anche le altre borse, per quello che riguarda i mercati oggi, borse sono con Parigi più 3,40%, e ancora Francoforte più 3,1%. Guido Maurino, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Vabbè, rifaccio la domanda che ho fatto ieri: quali notizie nuove hanno infiammato i mercati? Ma diciamo che oggi è stata una giornata positiva, in particolare per il comparto bancario, che ha approfittato. No, ma questo l'ho capito anch'io, ma volevo sapere se c'erano notizie nuove. A parte il fatto che appunto la Cina ha smentito che di voler vendere le proprie obbligazioni denominate in euro a causa della debolezza della moneta unica, è stato un po' questo il tema dominante, che prima ha fatto aprire in modo positivo i listini europei, che sono stati ulteriormente confermati dall'avvio positivo di Wall Street. Quindi diciamo un motivo cinese. Motivo cinese. O anche prezzi molto bassi, per cui chi ha guadagnato con le vendite allo scoperto, mori guadagna con le vendite al coperto, forse, no? Sì, certo, c'è un fatto di c'è un recupero dopo. Prima si guadagna scommettendo sul calo, poi si guadagna sul rialzo. Va bene, va bene. Si fa per dire. Il paese stringe la cinghia, ma c'è chi continua a speculare in borsa. Va bene, dai. Azimut più 7,4, Intesa più 6,70. Bene, tutte le banche, non saprei dove prenderla sta borsa. C'è però una dichiarazione di Corrado Passera a margine proprio dell'Assemblea di Confindustria che riguarda Intesa San Paolo. Sì, per quello che riguarda appunto Intesa San Paolo, Corrado Passera si è detto più ottimista sul fatto di arrivare a una quotazione della controllata Fideuram, e questo sicuramente ha contribuito in una giornata comunque positiva anche ad accendere maggiormente gli occhi sul titolo Intesa San Paolo. E poi ancora Unicredit bene dopo un annuncio di un rimborso di un bond da 500 milioni, di questo parliamo dopo il GR. 349-238-6666 per i vostri sms. :18:10 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, concludiamo l'approfondimento sulle borse oggi molto bene, poi commentiamo anche la manovra economica alla luce delle indicazioni arrivate dalla relazione della Presidente Confindustria Marcegaglia e anche questo giallo delle province, scompaiono, non scompaiono, non si sa. Allora, Guido Maurino, dicevamo di Unicredit e del rimborso di un'obbligazione da 500 milioni. Sì, oggi appunto Unicredit ha guadagnato 6,69%, ha annunciato il rimborso di un bond subordinato da 500 milioni in scadenza nel 2015, quindi in qualche modo ha dimostrato anche la solidità dell'istituto bancario. Sempre oggi ha annunciato la nomina dei 7 responsabili di territorio che avranno un po' il compito di gestire i rapporti con le istituzioni e i rappresentanti territoriali nell'ambito del progetto Insieme per i clienti, quello che insomma aveva causato non poche frizioni all'interno del gruppo bancario nei mesi scorsi. Certo. Fiat più 5,90 da un lato e Tenaris più 4,1 dall'altro. Sì, Fiat oggi ha presentato a Mosca un accordo per una joint venture in Russia per quello che riguarda appunto i trattori. La joint venture sarà fatta dalla controllata CNH Global e la nuova società si occuperà della commercializzazione di tutti i prodotti New Holland, quindi trattori costruiti sia localmente che di importazione. Per quello che riguarda Tenaris ha guadagnato il 4,09% ed è stato fra i migliori dei titoli del comparto petrolifero. Gli operatori sottolineano come il titolo avesse perso molto, oltre il 20% dallo scorso 6 aprile, e inoltre vedono un ciclo economico più positivo che dovrebbe portare anche a un rialzo dei prezzi delle tubature, che sono un po' l'attività di Tenaris. Grazie a Guido Maurino, Radio Cori, Sole 24 Ore. Adesso noi torniamo a occuparci in parte del tema di apertura, quindi la relazione della Presidente Confindustria, unendola a quello che sono gli sviluppi di questa manovra finanziaria straordinaria annunciata nei suoi dettagli ieri. 349-238-6666 per i vostri sms. La manovra varata dal governo 2 giorni fa contiene misure che Confindustria chiede da tempo. Perciò noi diamo sostegno alla linea di rigore del Presidente Berlusconi e del Ministro dell'Economia approvata martedì in esecutivo. Sono misure giuste che vanno rafforzate in Parlamento, non vanno indebolite in Parlamento, vanno rafforzate. Devono però ora essere varati interventi strutturali per incidere sui meccanismi di formazione della spesa pubblica. Servono inoltre riforme per rilanciare lo sviluppo. Questo è il passaggio, diciamo, forse da titolo per quello che riguarda il giudizio della Confindustria sulla manovra. Bene, andava fatta, lo chiede l'Europa, lo chiedono i mercati, ma occorrono anche misure strutturali, che vuol dire tagli permanenti, non solo, diciamo, di congiuntura sulla spesa pubblica. Di questo parliamo, e poi anche di un giallo che ci appassiona, quasi come un romanzo. Taglieranno, no, le province, scompariranno, no, le province, con Alberto Rioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Buonasera Alberto. Buonasera, buonasera a voi. Io farei ascoltare anche a questo punto, visto che qualche minuto ce l'ho, non il botta risposta, non c'è stata una risposta, ma insomma il giudizio di Mancegaglia sui costi della politica relativamente al taglio delle province e quanto invece ha detto quasi in contemporanea il presidente delle province italiane. Allora sentiamo Mancegaglia prima. La sforbiciata data con la finanziaria agli enti, ai costi della politica, è sacrosanta, ma è solo un buon inizio, va continuata. Perché, vedete, questo noi lo sappiamo bene, quando il Paese deve fare dei sacrifici, e qui è chiaro che il Paese deve fare dei sacrifici, è del tutto impensabile che non sia la politica per prima a ridurre energicamente i suoi privilegi. Se non si fa questo non è accettabile. È arrivato il momento nel quale i politici italiani, dal Parlamento giù fino all'ultima comunità montana, taglino i propri stipendi, taglino le dotazioni per le loro segreterie e collaboratori, taglino agevolazioni e esenzioni. La diminuzione del 10% delle indennità dei membri del governo, guardata da un'ottica internazionale, è un timido esordio. Bisogna continuare. È assolutamente opportuno che vi si adeguino anche gli altri organi costituzionali. Le rinunce devono essere fatte da tutti. Razionalizziamo le province, questo è un ritornello, il cui numero, secondo gli annunci del governo, doveva diminuire. Ora sentiamo dire che in questa manovra ne verrebbero eliminate 10, che sono pochissime, noi ne vorremmo eliminate molte di più, ma addirittura che c'è l'idea che nemmeno queste 10 vengono eliminate. Noi chiediamo invece che anche qui ci sia un passo avanti preciso e serio. E dicevo, quasi in contemporanea, il presidente dell'Unione delle Province Italiane, Giuseppe Castiglione, durante una conferenza stampa ha riferito invece di una telefonata avuta con il premier Silvio Berlusconi e anche con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Enrico Letta, in cui in sostanza dice: no, attenzione, non c'è nessuna norma sull'abolizione delle province, il giallo continua. Il governo ha detto con grande nettezza, con grande chiarezza, che non è questa la sede dove si possano modificare le circoscrizioni provinciali. Fra l'altro esiste all'ordine del giorno della Camera dei Deputati, in Commissione Affari Istituzionali, il disegno di legge di riordino delle autonomie locali. In quella sede noi abbiamo dato la disponibilità a rivedere le circoscrizioni provinciali, così come prevede la Costituzione, c'è il parere dei comuni e delle regioni, e quindi oggi all'interno della manovra finanziaria sarebbe stato un provvedimento chiaramente incostituzionale, non avrebbe apportato nessun risparmio di spesa, e quindi a noi il governo ha ritenuto opportuno, e quindi una polemica che di fatto non è mai esistita, il governo ha ritenuto di trasferire nella sede della Carta delle Autonomie, in sede di iter parlamentare corretto, questo problema che riguarda non l'abolizione delle province, il tema dell'efficienza delle province, il tema di un riordino istituzionale. E allora sì, il giallo continua, Alberto Rioli, abbiamo un minuto di informazioni sul traffico, poi tu, come certi commissari, riuscirai forse a svelarcelo, perché non si capisce se in queste 10 province sotto i 220.000 abitanti verranno eliminate o no. Abbiamo già capito che Bergamo è intoccabile, l'ha detto ieri il ministro Bossi, faremo la rivoluzione su Bergamo. A questo punto guardiamo con apprensione al destino anche di Monza e Lodi, perché fanno sempre parte del nord del paese. Ma al di là della battuta, insomma, singolare anche la posizione del presidente dell'Unione delle Province Italiane, Giuseppe Castiglione, che dice: ma dal taglio delle province non arriverebbe nessun risparmio di costi. Beh, certo, se tu tieni tutti i dipendenti forse no, magari li puoi anche smistare su ministeri cronicamente in deficit di dipendenti, penso alla giustizia, tanto per citarne uno. Comunque la risposta è soprattutto quanto reggerà di questa manovra poi nell'iter parlamentare, perché non è che basti una decisione del governo. 349-238-6666 per i vostri sms, la risposta tra un minuto. Di nuovo in diretta c'è attesa anche i nostri ascoltatori, Alberto Rioli, per capire quali province spariranno, visto che dovrebbero essere 10 quelle sotto i 220.000 abitanti e non di confine, quindi stia tranquilla Bolzano. Esatto, questi sono i due paletti che sono stati messi dalla norma, che è una norma, ricordiamo, di indirizzo. È chiaro che il governo non può pensare con un decreto, con un tratto di penna, di cancellare dei presidi istituzionali, quello è evidente. C'è una procedura prevista dall'articolo 133 della Costituzione. C'è un tempo tecnico entro il quale i comuni si devono riunire e deliberare insieme il nuovo ambito di aggregazione provinciale, sentito anche un parere delle regioni. Quindi si profila un Vietnam, un iter Vietnam, diciamo così, per questa nuova razionalizzazione delle province. Comunque, per ricordarlo, le province che dovrebbero essere a rischio sono Biella, Vercelli, Massa Carrara, Fermo, Ascoli Piceno, Rieti, Isernia, Matera, Crotone, Vibo Valentia. Quelle che si salvano perché hanno la clausola del confine, che sono confinanti con un paese estero, sono Verbania, Ossola, Cusio, Sondrio, Belluno. Allora, e quindi tu dici, attenzione che comunque o tu compi l'iter costituzionale, quindi d'accordo con le regioni, fai una legge vera e propria e a quel punto puoi decidere quali province eliminare, o se no questa dentro la manovra finanziaria è un indirizzo, è appunto una nota del governo che dice che cosa dovrebbe essere fatto a livello parlamentare, avendo il governo la maggioranza in Parlamento, come è chiaro, dalla nota dovrebbe poi, dall'indirizzo si dovrebbe poi arrivare a un effetto, ma in qualche modo ha ragione il Presidente delle province italiane che non c'è nessuna norma? Beh, diciamo ha ragione, perché non è che da domani queste province che abbiamo citato non esistono più, è chiaro, ci sarà quell'iter, ci vorrà una grande coerenza politica tra la maggioranza che c'è in Parlamento e che ha espresso il governo e le maggioranze che governano le regioni interessate, che dovranno poi ridisegnare i confini provinciali e riassorbire i nuovi organismi istituzionali, diluirli nelle province già esistenti, e quindi ci vuole un grande lavoro di razionalizzazione e di coordinamento. È evidente che, scusa, prego, 30 prego. Secondi, che questo è fondamentale nel momento in cui l'Italia si va a strutturare in modo federale. È evidente che il livello delle province è quello di maggior sofferenza, perché nel momento in cui rafforzeremo con grande determinazione i poteri regionali, l'ente provinciale diventa davvero pleonastico. E quindi, cioè, tu hai una struttura che è lo Stato centrale con alcune funzioni, molte altre funzioni le avranno le regioni, altri le hanno i comuni in un rapporto ancora più diretto con la cittadinanza. Ci si chiede, al di là dell'area metropolitana, non dico chi scrive, che è un'altra cosa, perché quando un comune grande come Milano, Torino, Roma è di fatto un'altra cosa, però attenzione, lì si capisce meno il ruolo delle province. Detto questo, l'altro elemento di tensione, al di là dell'opposizione della CGIL che ha già annunciato lo sciopero di questa manovra, intanto sottolineo che la Confindustria vuole misure strutturali, cioè che incidono per sempre, non per un anno, non una tantum sulla spesa, mi sembra braccio di ferro con regioni e comuni. Ora non vi faccio sentire, già ieri le abbiamo ascoltate, ma insomma il Presidente della Conferenza delle Regioni, Vasco Errani, ha detto a questo punto il federalismo fiscale è a rischio, e devo dire che anche Formigoni oggi sui giornali era molto critico sui tagli alle regioni, e anche Chiamparino, presidente dell'Associazione dei Comuni Italiani, ha detto così com'è per i comuni è insostenibile. Il rischio che vedo io è che tagliando ai comuni e alle regioni io mi becco in busta paga le addizionali IRPEF regionali e comunali, per cui di fatto aumenta la tassazione verso chi paga le tasse. È molto probabile, è chiaro. Grazie. Che i comuni e le regioni avranno due possibilità: o aumentano le tasse o razionalizzano e aumentano l'efficienza dei servizi che erogano con meno personale e meno costi base. È molto difficile questa seconda strada, che naturalmente è quella che viene auspicata dal governo, che tenta di stringere il torchio che spreme, diciamo così, gli enti locali, ma quindi è molto più probabile la strada dell'incremento fiscale, delle addizionali, anche perché nell'ultima stesura della manovra contributo che devono dare comuni, regioni e province alla manovra stessa è aumentato ulteriormente, quindi è davvero forte la stretta che c'è sugli enti locali. Stiamo parlando negli enti locali di un miliardo e mezzo i comuni, 2,4 miliardi in un solo anno, solo il prossimo anno le regioni, 800 milioni le province, insomma è un contributo. Sì, insomma, qui forte. Delle due l'una: o il comune spende di meno, però devo dire che per i comuni virtuosi già questo è più difficile, ci sono comuni spreconi, lo sappiamo. Però per i comuni virtuosi è più difficile, perché se tu sei virtuoso vuol dire che stai già risparmiando al massimo, oppure aumenti le entrate perché ti arrivano 1,5 miliardi di euro in meno, e tu propendi per la seconda La seconda ipotesi, ahimè, temo che tu abbia ragione. Temo per la seconda ipotesi, anche perché considera, se aumenta per esempio l'addizionale IRAP, saranno le imprese a pagare per esempio gli squilibri della sanità, e obiettivamente non c'è un nesso tra la spesa sanitaria e le tasse. Sì, devo dire che anche oggi Emma Marcegaglia è tornata su questo dicendo, ma insomma, se c'è una regione male amministrata in cui la spesa sanitaria va fuori controllo perché clientele varie o perché si è incapace di gestirla, perché devono pagare le imprese, pagassero i cittadini, così poi non rieleggono più quel presidente di regione. In una battuta, ancora a tuo avviso nell'iter parlamentare che adesso inizierà, come per ogni finanziaria, bisognerà arrivare alla fiducia per essere tranquilli? È difficile prevederlo ora, anche perché il clima che si sta creando, che è quello auspicato anche dal Quirinale, sarebbe addirittura di riuscire a coagulare attorno a una manovra di questo tipo una maggioranza più ampia di quella che esprime l'attuale governo. Quindi l'auspicio sarebbe il contrario, che in Parlamento emergessero forze che convergono verso il voto a questo tipo di manovra, magari corretta, magari ulteriormente migliorata, e non l'uso della fiducia, che sarebbe insomma una sconfessione alla discussione parlamentare stessa. Comunque, questo è tutto per la puntata odierna di Focus Economia. Grazie al vice direttore del Sole 24 Ore Alberto Aioli. Il giallo delle province a questo punto l'abbiamo in parte svelato, perché hanno ragione tutti e due, cioè ha ragione chi dice c'è una norma di indirizzo, però abbiamo capito con la definizione Vietnam, poi mi piacerebbe sapere chi sono i Vietcong, chi sono i Marines, però insomma avremo modo. Abbiamo capito che l'iter parlamentare è lungo, quindi purtroppo, come nelle cose della politica italiana, abbiamo capito che non c'è un colpevole, non c'è un solo colpevole, è sempre colpa del passato, però stiamo tranquilli, i cittadini di Verbania e delle altre province per ora non hanno nulla da temere. Da Sebastiano Barisoni un auguro di buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.